ad alta voce. Alba Rohrbacher legge Agostino di Alberto Moravia. La ripugnanza a star presso la madre spingeva sempre più Agostino a frequentare lo stabilimento Vespucci. Ma qui altri e diversi tormenti lo aspettavano e gli rendevano quel luogo non meno odioso della casa. L'atteggiamento assunto verso di lui dai ragazzi, dopo la sua gita in barca con il Saro, non si era affatto modificato. Anzi, aveva preso un aspetto definitivo, come fondato sopra una convinzione e un giudizio incrollabili. Egli era colui che aveva accettato quel noto e funesto favore dal Saro, e nulla più si poteva fare per cambiare quest'idea. Così, al primo invidioso disprezzo motivato dalla sua ricchezza, se ne era aggiunto un altro fondato sulla sua supposta corruzione. E l'uno pareva, in un certo modo, in quelle menti brutali, giustificare l'altro. L'uno nascere dall'altro. Egli era ricco. Sembrava che i ragazzi volessero significare con la loro umiliante e spietata condotta. Dunque che c'era di sorprendente che fosse anche corrotto? Agostino fece presto a scoprire qual sottile correlazione esistesse tra le due accuse e comprese oscuramente che pagava in tal modo la sua diversità e la sua superiorità. Diversità e superiorità sociali che si manifestavano nei panni migliori, nei discorsi sull'agiatezza di casa sua, nei gusti e nel linguaggio. Diversità e superiorità morali che l'impuntavano a rigettare l'accusa dei suoi rapporti con il Saro e ad ogni momento trasparivano in un chiaro ribrezzo per i modi e le abitudini dei ragazzi. Allora, più per suggestione dello stato umiliante in cui si trovava che per consapevole volontà, decise di essere come gli pareva che essi avrebbero voluto che fosse, ossia in tutto simile a loro. Apposta prese ad indossare i vestiti più logori e brutti che possedesse, con grande stupore di sua madre che non riconosceva più in lui l'antica vanità. Apposta smise di parlare di casa sua e delle sue ricchezze. Apposta ostentò di apprezzare e gustare quei modi e quelle abitudini che tuttora lo inorridivano. Ma quel che è peggio e che gli costò una dolorosa fatica, apposta, un giorno che al solito lo beffavano per la sua gita con il Saro, dichiarò che era stanco di negare la verità, che era realmente accaduto ciò che essi dicevano e che lui non aveva alcuna difficoltà a farne il racconto. Affermazioni tutte che fecero trasalire il Saro, ma che, forse per timore di esporsi, il bagnino si guardò bene dallo smentire. Questo aperto riconoscimento della verità delle dicerie che sino allora l'avevano straziato, dapprima ispirò un grande stupore, giacché i ragazzi non si aspettavano da lui, così timido e schivo, un tale atto di coraggio. Ma subito dopo fioccarono le domande indiscrete su come fossero andate le cose. E qui non gli resse più l'animo. Rosso e sconvolto in viso, ammutolì ad un tratto. Naturalmente i ragazzi interpretarono questo suo silenzio a modo loro, come un silenzio di vergogna e non, quale era in realtà, di incapacità a mentire e ignoranza. E più pesante di prima, gli ricadde addosso il solito fardello di beffe e di disprezzo. Tuttavia, nonostante questo fallimento, egli era veramente cambiato. Senza che se ne accorgesse, e più per effetto del diuturno sodalizio con i ragazzi che per volontà sua, era diventato assai simile a loro, o meglio, aveva perso gli antichi gusti senza per questo riuscire del tutto ad acquistarne dei nuovi. Più di una volta, spinto dall'insofferenza, gli accadde di non recarsi allo stabilimento Vespucci e di ricercare i semplici compagni e i giuochi innocenti con i quali, al bagno Speranza, aveva iniziato l'estate. Ma come gli apparvero scoloriti i ragazzi ben educati che qui lo aspettavano, come noiosi i loro svaghi regolati dagli ammonimenti dei genitori e dalla sorveglianza delle governanti, come insipidi i loro discorsi sulla scuola, le collezioni di francobolli, i libri di avventure e altre simili cose. In realtà la compagnia della banda, quel parlare sboccato, quel discorrere di donne, quell'andare rubando per i campi, quelle stesse angherie e violenze di cui era vittima, lo avevano trasformato e reso insofferente alle antiche amicizie. Gli accadde, in quel turno di tempo, un fatto che lo riconfermò in questa convinzione. Una mattina, giunto un po' in ritardo allo stabilimento Vespucci, non aveva trovato né il Saro, allontanatosi per certe sue faccende, né la banda dei ragazzi. Malinconicamente andò a sedersi sopra un pattino, in riva al mare. Ed ecco, mentre guardava la spiaggia con desiderio di vederci almeno apparire il Saro, avvicinarsi un uomo e un ragazzo di forse 2 anni più giovane di lui. L'uomo, piccolo, le gambe corte e grasse sotto la pancia sporgente, il viso rotondo in cui un paio di lenti a molla stringevano un naso appuntito, pareva un impiegato o un professore. Il bambino, magro e pallido, in un costume troppo ampio, stringeva contro il petto un enorme pallone di cuoio, tutto nuovo. Tenendo per mano il figlio, l'uomo si avvicinò ad Agostino e lo guardò a lungo indeciso. Finalmente gli chiese se fosse possibile fare una passeggiata in mare. «Certo che è possibile», rispose Agostino senza esitare. L'uomo lo considerò con diffidenza, al di sopra degli occhiali, e poi domandò quanto costasse 1 ora di pattino. Agostino, che conosceva i prezzi, glielo disse. Ora si capiva che l'uomo lo scambiava per un garzone o figlio di Bagnino, e ciò in qualche modo lo lusingava. «Allora andiamo», disse l'uomo. Senza farselo dir 2 volte, Agostino prese il tronco di abete grezzo che serviva da rullo e andò a sottoporlo alla prua dell'imbarcazione. Quindi, afferrate con le 2 mani le punte del pattino, con uno sforzo raddoppiato dall'amor proprio così curiosamente impegnato, spinse il pattino in mare. Aiutò a salire il ragazzo e il padre, balzò a sua volta e si impossessò dei remi. Per un pezzo, su quel mare calmo e deserto della prima mattina, Agostino remò senza dir parola. Il ragazzo stringeva al petto il pallone e guardava Agostino con i suoi occhi scialbi. L'uomo, seduto goffamente, la pancia tra le gambe, girava intorno il capo sul collo grasso e pareva godersi la passeggiata. Domandò alla fine ad Agostino chi egli fosse, se garzone o figlio di Bagnino. Agostino rispose che era garzone. «E quanti anni hai?» interrogò l'uomo. 13, rispose Agostino. «Vedi», disse l'uomo rivolto al figlio, «questo ragazzo ha quasi la tua età e già lavora». Quindi ad Agostino. «E a scuola ci vai?» «Vorrei, ma come si fa?» rispose Agostino, assumendo il tono ipocrita che aveva spesso visto adottare dai ragazzi della banda di fronte a simili domande. «Bisogna campare, signore!» «Vedi?» tornò a dire il padre al figlio. «Vedi, questo ragazzo non può andare a scuola perché deve lavorare, e tu hai il coraggio di lamentarti perché devi studiare!» «Siamo molti in famiglia!» continuò Agostino remando di lena. «E tutti lavoriamo!» «E quanto puoi guadagnare in una giornata di lavoro?» domandò l'uomo. «Dipende!» rispose Agostino. «Se viene molta gente, anche 20 o 30 lire.» «Che naturalmente porti a tuo padre», lo interruppe l'uomo. «Si capisce», rispose Agostino senza esitare. «Salvo si intende quello che ricevo come mancia». L'uomo questa volta non se la sentì di additarlo come esempio al figliolo, ma fece un grave cenno di approvazione con il capo. Il figlio taceva, stringendo più che mai al petto il pallone e guardando Agostino con gli occhi smorti e annacquati. «Ti piacerebbe, ragazzo?» domandò ad un tratto l'uomo ad Agostino. «Di possedere un pallone di cuoio come questo?» Ora Agostino ne possedeva 2 di palloni e giacevano da tempo nella sua camera, abbandonati insieme ad altri giocattoli. Tuttavia disse: «Sì, certo, mi piacerebbe, ma come si fa? Dobbiamo prima di tutto provvedere al necessario.» L'uomo si voltò verso il figlio e, più per gioco, come pareva, che perché ne avesse realmente l'intenzione gli disse: «Su, Piero, regala il tuo pallone a questo ragazzo che non ce l'ha!» Il figlio guardò il padre, guardò Agostino e con una specie di gelosa veemenza strinse al petto il pallone, ma senza dir parola. «Non vuoi?» domandò il padre con dolcezza. «Non vuoi?» «Il pallone è mio!» disse il ragazzo. «È tuo, sì, ma puoi, se lo desideri, anche regalarlo», insistette il padre. «Questo povero ragazzo non ne ha mai avuto uno in vita sua. Di, non vuoi regalarglielo?» «No», rispose con decisione il figlio. «Lasci stare», intervenne a questo punto Agostino con un sorriso untuoso. «Io non me ne farei nulla, non avrei il tempo di giocarci. Lui invece...» Il padre sorrise a queste parole, soddisfatto di aver presentato in forma vivente un apologo morale al figlio. «Vedi, questo ragazzo è migliore di te», soggiunse accarezzando la testa al figliuolo. «È povero e tuttavia non vuole il tuo pallone, te lo lascia. Ma tutte le volte che farai capricci e ti lamenti, devi ricordarti che ci sono al mondo tanti ragazzi come questo che lavorano e non hanno mai avuto palloni né alcun altro balocco. Il pallone è mio», rispose il figlio testardo. «Sì, è tuo», sospirò il padre distrattamente. Guardò l'orologio e disse: «Ragazzo, torniamo a riva». Con una voce mutata e del tutto padronale, senza dir parola, Agostino voltò la prua verso la spiaggia. Come giunsero in prossimità della riva, egli vide il Saro ritto nell'acqua che osservava con attenzione le sue manovre e temette che il bagnino lo svergognasse svelando la sua finzione. Ma il Saro non aprì bocca. Forse aveva capito, forse non gli importava. E zitto e serio aiutò Agostino a tirare a secco l'imbarcazione. «Questo è per te», disse l'uomo dando ad Agostino i soldi pattuiti e qualcosa di più. Agostino prese i soldi e li portò al Saro. «Ma questi me li tengo per me, sono la mancia», soggiunse con compiaciuta e consapevole impudenza. Il Saro non disse nulla, sorrise appena e, messi i soldi nella fascia nera che gli cingeva la pancia, si allontanò lentamente verso la baracca, attraverso la spiaggia. Questo piccolo incidente diede ad Agostino il sentimento definitivo di non appartenere più al mondo in cui si trovavano i ragazzi del genere di quello del pallone, e comunque di essersi così incanaglito ormai da non poterci più vivere senza ipocrisia e fastidio. Tuttavia sentiva con dolore che non era neppure simile ai ragazzi della banda. Troppa delicatezza restava in lui. Se fosse stato simile, pensava talvolta, non avrebbe sofferto tanto delle loro rudezze, delle loro sguaiataggini, della loro ottusità. Così si trovava ad avere perduto la primitiva condizione, senza per questo essere riuscito ad acquistarne un'altra. Un giorno di quella fine d'estate, i ragazzi della banda e Agostino si recarono in pineta per cacciare uccelli e ricercare funghi. Era questa, tra tutte le prodezze e le imprese della banda, quella che Agostino preferiva. Entravano nella pineta e a lungo camminavano per quelle naturali navate, sul suolo soffice, tra le colonne rosse dei tronchi, guardando in aria per vedere se lassù, tra i rami altissimi, qualcosa si muovesse e si rivoltasse per entro gli aghi. Allora Berto, o il Tortima, o Sandro, che era il più abile di tutti, tendevano gli elastici delle loro fionde e scagliavano certi loro sassi aguzzi verso il punto in cui gli pareva di aver sorpreso un movimento. Talvolta un passero, l'ala fracassata, piombava a terra e poi, svolazzando e pigolando pietosamente, saltellava e si trascinava, finché uno dei ragazzi non lo afferrava e non gli schiacciava il capo tra due dita. Più spesso, però, era una caccia infruttuosa e i ragazzi se la cavavano con dei lunghi vagabondaggi per la profonda pineta, a testa riversa e occhi fissi verso l'alto, sempre più allontanandosi e addentrandosi, finché tra i tronchi dei pini cominciava la macchia e il cespuglio spinoso e arruffato succedeva al terreno brullo e morbido di secche spoglie. Con la macchia aveva inizio la raccolta dei funghi. Aveva piovuto un paio di giorni e la macchia era ancora bagnata con le foglie stillanti e il suolo fradicio e tutto inverdito. Nel più folto dei cespugli, i funghi gialli, lustri di muco e di umidità, splendevano solitari e grandi, o in famiglie stretti di piccoli. I ragazzi li coglievano con delicatezza, sporgendosi tra i rovi, passando due dita sotto i cappelli e avendo cura di tirarne via anche il gambo, intriso di terriccio e di borraccina. Poi li infilavano l'uno sull'altro in certi lunghi e appuntiti sterpi di ginestra. Così, di macchia in macchia, ne radunavano qualche chilo, il pranzo per il tortima che, come il più forte, confiscava per sé la raccolta. Quel giorno la raccolta era stata fruttuosa. Dopo molto errare avevano trovato una macchia, per così dire, vergine, dove i funghi crescevano fitti, l'uno presso l'altro, sul loro letto di musco. Verso il tramonto la macchia non era stata ancora esplorata che a metà, ma era tardi e i ragazzi, con parecchie schidionate di funghi e due o tre uccelli, se ne tornarono pian piano verso casa. Di solito prendevano per un sentiero che portava dritto al lungomare, ma quel giorno, inseguendo un beffardo passero che svolazzava tra i rami più bassi dei pini e dava continuamente l'illusione di poter colpirlo facilmente, finirono per attraversare in tutta la sua lunghezza la pineta che, nella propaggine orientale, si addentrava alquanto dietro le case della città. Imbruniva che sbucarono dagli ultimi pini nella piazza di un quartiere periferico. Immensa, la piazza non era lastricata, ma tutta sabbiosa e sparsa di mucchi di detriti e di cespugli di cardi e di ginestre, tra i quali serpeggiavano malcerti e sassosi sentieri. Qualche stento leandro cresceva irregolarmente sui lati della piazza. Non c'erano marciapiedi. I pochi villini che vi sorgevano alternavano i loro giardini polverosi a grandi spazi vuoti, recinti di reticolati. Questi villini apparivano piccoli torno torno la piazza, e il cielo spalancato sull'immenso quadrilatero sembrava crescerne il deserto e lo squallore. I ragazzi presero in diagonale attraverso la piazza, camminando due a due come i frati. Gli ultimi della fila erano Agostino e il Tortima. Agostino portava due lunghe trecce di funghi e il Tortima, nelle sue grosse mani, un paio di passeri dalle teste penzolanti e sanguinose. Il Tortima, come furono sul limitare della piazza, diede una gomitata nel fianco di Agostino e, indicando uno di quei villini con un tono allegro, «L'hai visto? Sai cos'è quello?» Agostino guardò. Era un villino molto simile agli altri, forse più grande, con tre piani e un tetto spiovente di scaglie d'ardesia. La facciata, di un grigio affumato e triste, aveva persiane bianche, tutte serrate. Gli alberi del folto giardino la nascondevano quasi per intero. Il giardino non pareva grande. L'edera ricopriva il muro di cinta. Attraverso il cancello si vedeva un breve viale tra due file di cespugli e sotto una vecchia pensilina una porta dai battenti chiusi. «Non c'è nessuno in quel villino», disse Agostino soffermandosi. «Nessuno», fece l'altro ridendo. e in poche parole spiegò ad Agostino chi vi abitasse. Agostino aveva già altre volte sentito parlare dai ragazzi di queste case, dove abitano soltanto donne, e vi stanno chiuse tutto il giorno e la notte, pronte e disposte per denaro ad accogliere chi che sia. Ma era la prima volta che ne vedeva una. Le parole del Tortima ridestarono intero in lui il senso di stranezza e di stupore che aveva provato la prima volta che ne aveva sentito parlare. E come allora non aveva quasi potuto credere che potesse esistere una tale e singolare comunità, dispensatrice generosa e indifferente di quell'amore che gli appariva così difficile e lontano, così ora la stessa incredulità gli fece volgere gli occhi al villino, come a cercarvi sui muri le tracce dell'incredibile vita che custodiva. A contrasto con l'immagine favolosa di quelle stanze, in ciascuna delle quali splendeva una nudità femminile, il villino gli apparve singolarmente vecchio e tetro. «Ah, sì», fece, fingendo indifferenza, ma il cuore gli aveva preso a battere più in fretta. «Sì», disse il Tortima, «è il più caro della città». E aggiunse particolarità sul prezzo, il numero delle donne, la gente che ci andava, la quantità di tempo che si poteva rimanerci. Queste notizie quasi dispiacevano ad Agostino, sostituendo, come facevano, meschine precisioni all'immagine confusa e barbarica che si era fatta dapprima di quei luoghi proibiti. Tuttavia, fingendo un tono non curante di oziosa curiosità, mosse al compagno molte domande, che adesso, passato il primo momento di sorpresa e di turbamento, un'idea gli era spuntata nella mente e, ostinata, rivelava una sua singolare vitalità. Il Tortima, che pareva informatissimo, gli fornì tutti i chiarimenti che desiderava. Così, chiacchierando, visto che ormai era notte, la compagnia si sciolse. Agostino consegnò al Tortima i funghi e si avviò verso casa. L'idea che gli era venuta era molto chiara e semplice, sebbene complicate e oscure ne fossero le scaturigini. Egli doveva, la sera stessa, andare in quella casa e conoscervi una di quelle donne. Questo non era un desiderio o un vagheggiamento, bensì una risoluzione fermissima e quasi disperata. Gli pareva che soltanto in questo modo sarebbe finalmente riuscito a liberarsi delle ossessioni di cui aveva tanto sofferto in quei giorni d'estate. Conoscere una di quelle donne, pensava oscuramente, voleva dire sfatare per sempre la calunnia dei ragazzi e nello stesso tempo tagliare definitivamente il sottile legame di sensualità sviata e torbida che si era creato tra lui e sua madre. Non se lo confessava, ma sentirsi finalmente sciolto da questo legame gli appariva come lo scopo più urgente da raggiungere. Non più tardi di quello stesso giorno si era convinto di questa urgenza attraverso un fatto molto semplice ma significativo. La madre e lui avevano sino allora dormito in camere separate, ma quella sera doveva arrivare di fuori un'amica invitata dalla madre e trascorrere con loro qualche settimana. Siccome la casa era piccola, era stato deciso che l'ospite avrebbe occupato la camera di Agostino, mentre al ragazzo sarebbe stata accomodata una branda nella camera della madre. Quel mattino stesso, sotto i suoi occhi scontenti e pieni di ripugnanza, la branda era stata collocata al lato al letto materno, in cui, ancora disfatti e come impregnati di sonno, stavano ammucchiati i lenzuoli. Insieme con la branda erano stati trasportati i suoi panni, gli oggetti da toeletta, i libri. Quando te ne andrai, non potrai portarti dietro tutte le mie cose che ti ho dato. Le cose dell'amore non si possono tenere, le cose dell'amore non